non c'è più baracchino. Non si è fatto più sentire. L'ho chiamato io oggi, dice che ieri sera ci aveva smentolata e non mi ha risposto. Mi ha detto, dice, Antonelli, c'è un coma. Ma ti ha detto, c'è? Che era in coma, si è preso una diaghira, amico. Vabbè. Lui lunedì non lavora, capito? Andiamo, vai, andiamo. No, andiamo, vai, andiamo proprio. Cappa con cappa. Che sono un po' che scarichi qua. Cosa avete, ragazzi? Ma dove la trovare? Dicevo benissimo. Sai cosa vuol dire? Beh, solamente la MFM c'è questo problema, cazzo. E buh, ma la trovare non si duro, cazzo. Sento di avere segnali 3, 6, perfetti. Solo in AM mi fa questo difetto. Finché non cambio questa resistenza, sono fregato. Questa in pratica mi dà la MFM. La malattia è perfetta, una bomba questa baracchina. La voglia. Ma baracchino t'ha lasciato? Non ho capito. Salvino, baracchino t'ha lasciato? No, passa domani a portarmi il presidente. Che lui in pratica deve cercare di finire da uno portati all'altro e gli ho chiesto solamente il favore di portarmi il baracchino per vedere, intanto sono quasi uguali, insomma, e dove c'è il modulatore che resistenza, ma qual è il valore della resistenza, quello che mi interessa a me, in modo da piazzarglielo qua, capito? Così me lo provo e sono a posto. Se avete fatto un buon colpo e la panica è a posto, è perfetto. È allineato, capito? Mezzo gai. È solo quello, capito, non è altro. Le ho dovuto mettere la resistenza originale sua. Cioè, esce anche senza resistenza in trasmissione, il problema è la ricezione e basta. In AM/FM ricevo più, appena più, un pochettino più basso, massimo il segnale 9,9,20 arriva a Santiago 5,6, hai capito? E invece in modo attuale i segnali giusti, 9,20, 9,30 eccetera eccetera. Capito. L'altro debole è quello, più che altro. Prima c'è un falso contatto, l'ho eliminato e gli ho messo la scheda nuova e gli ho cambiato quel condensatore. Che c'era gonfio eccetera eccetera, che non me l'ho neanche accorto, ho detto. Adesso devo cambiare solamente questa resistenza e basta. Se poi secondo come cambierò quel transistore a fianco al modulatore e vaffanculo, almeno c'è segnali molto più tranquilli, mi piglio il sicuro, capito? No, il problema ce l'ho, hai capito? Ricevo bene, cioè, ricevo benissimo. Il problema è che i segnali possono essere giusti, eccezione, ce li ho massimo 6, hai capito? 6 e mezzo. Arriva a 9,20 ce ne vuole per segnarlo giusto, capito? È quello che mi dà fastidio. Poi banalmente segna giusto, è solamente l'MFM che è quel problema. Il primo gliel'ho cambiato, gli ho messo un dico di bianchi che aveva fatto te, il 103, come l'originale, e l'ho regolato e più di quello non mi dà. Già va bene, alla fine poi è un casino si cattiva la chiesa. Oh, vabbè, quel telefono quanti anni ha? Buh, ma sono di anni, cioè almeno c'ha più di 20 anni. Io ho il 2009 e ho 20 anni, in FM a volte dà dei problemi, adesso bisogna che cambio questo trimmer, perché è vecchio come il col, come il cucco, pieno di polvere eccetera eccetera, quindi ne ha subito questo baracchino qua, è stato fuori in terrazzo da Giovanna, ci ha fatto un inverno intero, un'estate intera. Capito? Poi gli ho sceso il Connex 4000 e usavo quello, dopodiché avevo sceso il Saturn-Mecco e ho detto usa questo, e quando ho visto che c'erano due gradi fuori ho detto no, mettilo immediatamente dentro, se no ho detto mi rimane in mano, ho detto quella parecchia, infatti ci avevo messo in salone, l'antenna è interrazzo, un interrazzo grande, capito? Vediamo se Fabio è questo. Fabio, tu sei? Fabio? E chi sei? Ah, yeah, sei tu già. Questo è Fabietto di Cabolata, te lo ricordi? Sì, che canale è? Che frequenza è? Sul canale 6 in PMR. Sì. Bene, signori, io vi saluto e me ne vado in quel rettino. Ciao a tutti. Ciao Natali, buonanotte. Allora senti questo chiamato a Charlie. Oh. Allora senti quello chiamato a Charlie. Cazzo, c'è poca gente di cosa, niente, cazzo, in PMR. Cazzo, ma tutti i vigilanti no che vi sono? Io non sono visto, tutto sono a termine. Allora, su sei, cazzo, arriva a fotte qua. Però senti. Cazzo, tutti i vigilanti, cazzo, c'hanno il PMR, no? È possibile, cazzo. Tutto il diario sta diventando questa PMR, cazzo. A canale 6? Su canale 6 sono. Su 7 ci sono i, come si chiama? L'ospedale. Su 7 c'è l'ospedale. Su 6 ci sono qui. Beh. Aspetta che mi ha fatto il telefono, così ho faccio entrare. Cioè deve essere dormito. No, scusa, il telefono non ho risposto. Catturato Fabio c'è qua. In PMR, arriva anche forte. Adesso pure io l'ho sentito. Cazzo, ma tutti qua sono, no, vigilanti, portierato, tutti loro che sono, tutti in PMR. Fuori in gabbola. Poi metto un canale, su canale 5 metto cazzo musica 24 ore su 24, almeno mi faccio una radio libera. Inno, cazzo. Il bello che su 7 della mattina ci sono i cose, c'è una, così c'è, una azienda di costruzione, di quelli che stanno facendo il, delle costruzioni, infatti, chiamavano così, sta facendo una facciata nuova, deve essere più carbonazzi, e poi sotto senti tutti quelli del pronto soccorso, quindi c'è un troiaio, cazzo, sono 7. Dove è il canale 4? No, oh, sul 7 sta parlando, sul 7 c'è la della, tante le dita c'è, hai capito, parlano qui a, deve essere solo a carbonazzi o non è solo, cosa del genere, e poi giù c'è, invece c'è il pronto soccorso, quindi sento tutti e due io, quando parlo io che il pronto soccorso faccio quello che lo faccio, infatti si lamentano, questo è un canale di emergenza, mi ha detto a me, e te da quando, gli ho detto, perché ho comprato quello 7, ho detto canale 7, non ha giù compreso. Ma sono poveri. Sì, ha detto lascia il canale libero, mi ha detto questo è il canale emergenza, canale 7, gli ho detto, allora quando ve l'avete comprato, gli ho detto scusa. Sento tutto, sento nome, cognome, di quelli che stavo facendo, di quelli che stavo pigliando la, dove sono i letti, il numero del letto, quelli che sono ricoverati, nome, tutto. Lo sento, cazzo, no, non deve frega nulla, dicono tutto all'apparecchio. Poveracci, cazzo, quindi là. Casino. Sì, però, cazzo, a dire alla barca il numero del letto, nome e cognome di quello, cosa sta prendendo, eccetera, le medicine, per il Covid e cosa del genere, dà un po' fastidio, cioè almeno un po' di privacy, cazzo, non fare i nomi, lì solamente il letto e basta, non è che devi dire nome e cognome della persona che è ricoverata, capito, lì a un certo punto, no, non va bene. Non va bene, no? noi ci sento tutto, tutto, tutto quello che dicono, nome, cognome, che medicina sta prendendo, cioè, è freddo, eccetera, eccetera. Tutto un casino, vabbè, se lo saprò loro, cosa vuoi dire? È un casino, Tu senti solo quello che sento io di qua adesso, su canale 6, tu li senti bene, quello deve essere potierato, senz'altro. Ha saputo di esserci questi, non poteva esserci un bel po' di ragazze che rispondevano. Ciao, come ti chiami? Che sei? Sto cercando una persona per conoscere. Nulla, sono tutti maschi. Ah, tipo Daiking, cosa ti posso dire? Tu devi sassare, cazzo. Oggi me ne vado a richiesta di una. Mi piace, mi ha detto. Silvia si chiama. Voi amica di quello, noi amica di quell'altro, va a fa' culo, cazzo. Di cosa sono allucinanti, quelle... si mettono dopo col culo fuori, con le tette fuori. Ma cosa sai, me l'ha detto, me le tette a una, cazzo. E immediatamente mi hanno scritto, sei fuori dal gruppo, aiuto. E non mi sembra vero, gli ho detto, cazzo. Più che magari se non ci sono qua, gli ho detto. Ma è vero, me culi, tette, appuntamenti, non trovi altro, sono persone che cercano culi, persone e basta, non c'è altro. E cazzo, per mettersi così è meglio che facevano, come ti posso dire, una specie di vetrina. Adesso mica col Covid e cose del genere, lì quando ce n'erano, cazzo, a pieno Sassari. Allora, a parte quello, poi adesso le vendite di nuovo ci sono, per la questione della guerra, adesso prenditi quello, cioè, ci sono le offerte. Poi Amazon non manca mai, quello è una fregatura, non manca mai, cazzo. Non c'è così, va. Sono tutti numeri qui, mica, hai capito? Fanno vedere cazzo i biglietti da 100, da 1000. Mi sembra cazzo una persona che conosco io, cazzo, che ha messo i milioni di su Facebook, cazzo. E la tradizione di soldi al banco, ma cazzo, io a me ce ne vuole il coraggio. Dopo 3-4 mesi, cazzo, ha fatto vedere il frigorifero da vuoto che stava facendo la dieta, ma vaffanculo, cazzo. Addirittura. Te lo sto dicendo, hai capito di chi sto parlando io? No, di chi stai parlando? Di Roberto. Roberto chi? Molti ne conosci. Quello che aveva la macchina supercar. Non ho capito. Prima si faceva le foto con i soldi, ho detto. Con i 100, 200, 500 euro, quello che era. L'ultima volta ho visto che si è fatto la fotografia, sto facendo la dieta, con frigorifero vuoto. Cazzo, ha detto, a bel punto è arrivato, fa poco che si vende anche la macchina. Sta facendo la ponte, cazzo, una macchina normale del 50, 60, anche 70.000 euro, 450 cavalli. Già lo so, però è una cosa esagerata, perché hai capito, non sei vaccinato, il problema è quello, ha capito, è stato assunto lì, però lui non si è vaccinato e quindi adesso fa poco il Blue Pass, non c'è più, quindi ritorna nuovo a lavorare, almeno quello sono contento, però non puoi stare, cioè a un certo punto non ti vaccini, la questione è questa, preferisci morire di fame e cazzo che non vaccinarti, a un certo punto ti conveniva, e cazzo sai che non sei in un'azienda seria, cazzo, e cosa del genere, e non ti vaccini e non fai Green Pass, io a posto solo l'avrei fatto, mi sarei vaccinato, se non l'avrei pigliato in culo, meglio lo stipendio che averlo a casa tutti i giorni, andare nel ristorante, tanto per dire, mangiare gratis e fare la vita le pappone, perché lì alla Ferrari si guadagna bene, non è che mangi dentro a casa, lì mangi direttamente in azienda, capito? E invece testardo. È un casino, sì, mi sarebbe capace anche di farti una, come ti posso dire, da una dalla macchina normale fate una Ferrari come fanno in Cina, capito? In Cina facevano così, basta mettere il burro esterno. Anche la supercar, vedi? Lui l'aveva fatta, quella moto di cosa, la moto di... come si chiama? C'ha passione, la verità è brava, non vi posso dire niente, però c'è solo quella lacuna, solo quella. Non vaccinarsi, secondo me ha fatto lo sbaglio che è più grande della sua vita. Non gli costava niente vaccinarsi. È inutile stare così. In bilico, capito. Già lo sai, Draghi, a un certo punto, adesso meno male sta togliendo tutto, sta togliendo, però se dovesse peggiorare le cose si trova a mettere a stare anche lui come noi, adesso. Se dovesse succedere la guerra, già la pigliamo buona, già. Ieri non ho messo fatto spegnimento, ieri no, perché? Adesso non ho fatto spegnimento, no? Spegnerà solo. Vabbè. E che ci vuoi fare con voi? Che ci vuoi fare? Oh, grazie. Cazzo. Qui sta la bacia di Gerrandi e ne va a fare la nanna. Pronto. E siamo qui a proposito. Scaricati pompo. Aspetta. Questo coso scaricati. Si chiama Big Live. Scaricatelo. Big Live. Ma cos'è, dove ci sono quelle ragazze che fanno il coso? Big Live. Vigo live, scritto live, Vigo live. Hai cercato che li scrivo. Chi è? Buonasera, Lupolo da questa parte. Ehi, Lupolo, qua, vino senza alcol. Ciao Luca, buonasera. Ciao, c'è alternata, Ho sistemato un microfono, infatti volevo sapere se stava andando bene o meno. Aspetta, ti faccio. Aspetta un attimino, faccio un po' di piano. E poi mi dici se c'è alternata. C'è alternata. Ciao bebè, non è alternata. Dico Live, giusto? Luca. Dico Live streaming. Sì, Vigo Live. Lo sto installando adesso. Ciao Antonello, buonasera. Ma Antonello, dimmi se senti alternata tu. Ma passaggio. Aspetta, dai, lascio un po' di bianco. Non è alternata, c'è il buon Dio. Che discorso è verso? Lasciatelo. Perché ho messo una capsula di quelle piccole, condensatore con la batteria da 1,5 su microfono che era vuoto, dai. Volevo sapere come andava. Ehi, già vabbè, se va che volete come lo mettere. Come andiamo, dai. quindi c'era un zio, giusto? Ehi, aspetta che metto il numero di telefono a questo telefono qui. Così vado un po'. Accendi per sperimentare funzioni complete. Aspetta, va. Domani mi tocca smontarlo, dai. A parte Rosio, la radio com'è? È buona, accettabile o una buccaria? È buona, è perfetta. Bene, bene, dai, domani controllo le connessioni. Ho messo una capsula con la batteria da 1,5 in serie, dai, già lo sai com'è. Ho fatto l'accrocchio, perché la sua originale se n'è andata. Adesso vediamo se riusciamo a eliminare questo ronzio domani, dai. Sì, già elimino, non c'è problema. Bene, bene, dai. E tu, Luca, cosa mi dici della radio, a parte il ronzio? Mi ascolti bene? Sì, la radio è buona, sì. A voglia, benissimo. Allora devo sistemare sicuramente qualche connessione, dai. Controllo bene, l'ho fatto al volo stasera, così. Controllo bene le saldature. E ciccia, dai. Bene, Meda, dai, rifello a... per vedere se funge, dai. Dai, ragazzi, buona serata e buon proseguimento. Ciao, già, buonanotte anche a te, dai. Beh, Pompo, cosa ti dico? Mi dispiace che magari poi mi addormento, non ti posso salutare. Chiudo pure io. Da domani mattina già sono a casa. Boh, se vuoi accendere, sei a casa. E se no, fammi sapere, se mi mandi questo trimerino, avvisami. Ehi, ok, non c'è problema. Ce l'ho e già te lo do. Aspetta che sto entrando a questo cazzo di cosa. Ok, dai, ciao, buonanotte a tutti. È una regala questa cosa, comunque sia. Quando vengo, quando mi appuntamento? Mi dai appuntamento? Aspetta, guarda che posso pure a casa io per te, ti faccio pure a casa, Togliaio. E allora che posso organizzare, ti porto a mangiare, bevi? Ti porto a capire. Perché se no. Sempre al canale 6. Già da bere, che mi vuole. Ah, sempre al canale 6. Che cazzo è sto canale? L'ho appena aperto. Mica pensa lui. Tu c'è scritto. Prova a cercare Laura Top trattino Top. Laura Top, così è. Laura Top, Torino, Otranto, Palermo. Laura Top. Aspetta che cerco. Ma che cazzo di carica un euro 26? Ma anche sono matto. A casino se ne va. Che rattino poco fa, mi sembra tottino. Vabbè, dai, Pompo, a domani allora, io chiudo, sennò è un casino. Ciao, buonanotte. Ehi, ciao, buonanotte. A domani. Cazzo deve avere 26, si so fare un cazzo. Glielo i soldi. Guarda, ascolto, ma paga casino.